Il mondo adesso non è più lo stesso, ma io mi ricordo di un tempo in cui questo cesso sembrava un po' meno scontato. E pensare non era reato, e non eri culturalmente obbligato a mostrarti contento di partecipare a un benessere che è basato sullo sfruttamento di molte ignoranti e ignorate masse, della fronte grondante sudore degli ultimi della classe, in questa grande scuola elementare a cui il mondo somiglia e in cui puoi trovare il povero, il ricco, il somaro, il secchione, e il vecchio professore che va cercando nel portone quella che sola gli può dare una lezione. Le cose che ti insegnano il tuo cervello, disegnano le strade da percorrere, il mondo da conoscere. Voglio un'altra società, non smetterò di cercare già conosciuto. Voglio parlare un altro linguaggio per raccontare chi sono davvero, che possa tradurre in parole il mio vero pensiero. È tutta una grande per avere il voto più alto, per prendersi il primo banco e far bella figura col professore, mentre in fondo alla classe i ripetenti fanno combutta, vedrai prenderanno di certo zero in condotta. E poi da grande, ora lavora, produci, spendi tempo e fatica in fabbrica o negli uffici, metti sempre più carne nelle mascelle voraci del meccanismo massificante che ci trasforma da uomo in cliente. Voglio un'altra società, non smetterò di cercare nuove possibilità al di là del già conosciuto. Voglio parlare un altro linguaggio per raccontare di intervenire. Via di torre spaccata.